l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon sabato 11 giugno, auguri, che si chiama San Barnaba, siamo qui in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, sono le 10 primi e 19 secondi e vi salutano i compari dei Conti della Belva, oltre a Oscar Giannino, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè. E questa volta rotazione sarà Renato Cifarelli che poi ci raggiunge per telefono nel corso della trasmissione. I nostri produttori di pille si alternano nel pedalare, perché noi ci crediamo nella ripresa italiana, poi guardiamo i numeri e diciamo vabbè, dobbiamo pedalare tutti di più, ma al di là di questo, come al solito cari ascoltatori, la sintesi dei temi che tratteremo. Per consentirvi, vi chiediamo davvero di telefonarci in diretta all'800 24 00 24. Per le opinioni, lo sapete, il numero è 349 238 6666. Inizieremo come al solito con i numeri della settimana per capire un po' gli aggiornamenti e soprattutto le prospettive che ci sono sul mercato. Qua si balla perché poi il 23 votano i britannici e oltre a questo una riflessioncina sulle banche italiane solidissime, perché anche questa settimana ci sono vicende che riguardano un bel po' di istituti italiani: Veneto Banca, Vicenza, la Questio, Rimini, Cesena, ce n'è Unicredit, ce n'è veramente un po' per tutti. Dopodiché abbiamo un pezzo di trasmissione dedicato a un argomento sul quale mi aspetto davvero che vogliate chiamare per darci la vostra idea. Lo sapete, c'è stata una nuova sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione, e la sentenza, a differenza di quella di un anno fa, era novembre dell'anno scorso, sullo stesso argomento, cioè si applica l'articolo 18 modificato dalla legge Fornero e dal Jobs Act per i lavoratori privati anche a quelli pubblici. Un anno fa, anzi pochissimi mesi fa, la risposta era stata della Corte di Cassazione: certo che sì. La risposta data adesso dalla Corte di Cassazione è certo che no. Allora, diteci come la pensate su questo punto. È giusto? Lasciamo perdere, vi spiegheremo anche le pinzellacchere giuridiche. Ma al di là di questo, è giusto vivere in un paese nel quale le tutele, i diritti del lavoro sono diversi tra mondo pubblico e mondo privato? Ci sono gli argomenti, la Corte Costituzionale, vedrete, dice sì, è giusto. Ma se ai vostri occhi appare giustificato? Poi vedremo se la colpa è più dei magistrati o più della politica, come penso io. Ma intanto su questo blocco di argomenti diteci la vostra. Volete, siete felici come statali, siete infelici come privati, oppure da privati difendete gli statali, o da statali qualcuno di voi un po' ha il complesso di colpa e dice ma insomma un po' mi vergogno ad essere più tutelato dei dipendenti privati quando c'è il licenziamento. Dopo questo blocco di questioni facciamo un ulteriore approfondimento, visto come balla il mercato e rischi che balli ancora di più, con un ospite su un argomento che di volte in volte abbiamo iniziato a trattare da qualche mese, lo trattammo con Massimo Scolari di Ascosim, e cioè sulla necessità che voi apriate un po', tirate sulle vostre antenne e vi muniate di consulenti finanziari indipendenti, e con una di loro inizieremo a fare una riflessione su che cosa, non consigli per gli acquisti, ma intanto che cosa non comprare con questi chiari di luna. Poi un'altra riflessione sui cinesi e il calcio italiano nel quadro della strategia del Partito Comunista Cinese per l'assalto alla Coppa del Mondo, un ingresso massiccio anche sul mercato italiano, e vedremo dalla Cina di farcelo spiegare meglio. Ora, al di là di tutti questi temi, cari amici, in settimana cosa vi ha colpito, Mario? Ma ho letto una cosa che leggo da 5 anni a questa parte, cioè da quando è iniziata la crisi, cioè che il governo di turno potrebbe, semplificare le agevolazioni fiscali, cioè le varie detrazioni d'imposta e deducibilità dall'imponibile. Ora, a parte il fatto che in questo paese andiamo sempre avanti a ripetere le stesse cose finché morte non ci separi, però giusto per dirla in soldoni, ad esempio, la deducibilità degli interessi passivi sui mutui prima casa, le spese sanitarie, le detrazioni per lavoro dipendente, ma anche come era la palestra e quant'altro, veterinario, eccetera. Ora, è uscito nei giorni scorsi quello che secondo me è un ballon d'essai che viene da Palazzo Chigi sui giornali, del tipo potremmo mettere un tetto tra il 2 e il 5% dell'imponibile e recuperare per questa via, non è dato sapere quanto, 1 miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi, non lo so. Resta il fatto che lo scorso anno, anche 2 anni fa, Renzi si era opposto a questa misura, perché questa misura si risolve in un aumento della pressione fiscale. Però a intervalli regolari, visto che noi abbiamo distribuito mance all'universo mondo, e gli 80 euro, il bonus bebè e quest'altro e quell'altro ancora, la decontribuzione a termine, eccetera, poi improvvisamente si scopre che c'è bisogno di recuperare risorse, si potrebbero alzare le tasse per questa via. Faccio notare che se abbiamo tutte queste esigenze, noi abbiamo tolto la TASI sulla prima casa, che sono 4 milioni annui di risorse. Anzi, il 16 ci sarà, il 16 ci sarà il funerale della TASI, eccetera. Come ha detto il ministro Padoan, si farà sentire per la sua assenza la TASI. Può darsi. Io personalmente, visto il mio modello unico, eccetera, diciamo l'assenza di quei 200 euro della TASI, francamente se guardo tutto il resto mi viene da piangere, non è che non l'ho sentita. Però questo per farla breve, si continua ossessivamente a ripetere gli stessi concetti da anni e questa è la cosa che mi manda ai matti, ma che trovo estremamente pericolosa, perché stavo osservando prima, ma non è un'osservazione particolarmente acuta, che ogni volta che scoppia un casino da qualche parte nel mondo finisce in testa alla borsa italiana. Non so se avete fatto caso. Quindi o siamo i più sfigati di tutti o il mondo non ci capisce, oppure abbiamo delle vulnerabilità nostre. Oppure abbiamo nostre, dei problemi veri. Non lievi. Esattamente. Caro Alberto. Io sono particolarmente preoccupato per la nuova legge sul negazionismo. Vi devo dire che... sì, perché... questa mania un po' del politicamente corretto per cui non si possono offendere le ideologie non mi piace, perché se qualcuno ha il diritto di non essere offeso nelle sue credenze, comprese quelle più bizzarre, assurde, fanatiche, come appunto il negazionismo sul nazismo, allora vuol dire che c'è qualcuno che ha il dovere di controllare, di leggere, di verificare che non sia vero, e cioè stiamo invocando implicitamente uno stato di polizia sulle idee. E invece io sono convinto che si debbano combattere le idee assurde, infondate, nelle aule scolastiche, nelle aule della ricerca storica, non nelle aule del tribunale. Mi dispiace, devo dirlo, ma vedo un coro di politici che applaudono quando io sono terrorizzato di vedere che lasciamo ai nostri figli una nazione che ha meno libertà di parola di quella che abbiamo ricevuto. Invece sono convinto che il confronto di idee, anche aspro, anche duro, anche qualcuno che se la prende con lo Stato urlando, vero? Che no, ha diritto che di esiste. Anche gli stupidi hanno il diritto di dire le loro opinioni e noi urleremo di più. Naturalmente, per chi osservasse, ma come siete impazziti? Siete a favore di chi nega la Shoah? Il contrario, il problema è che trascinarlo in tribunale a più pari dei 2-5 anni di carcere significa farne agli occhi di qualcuno magari un eroe, capite? E allora è proprio questo che va evitato, cioè le sciocchezze sono auto evidentemente stupide, le scie chimiche chi vuole ci crede. Detto questo, una condanna di tribunale è la maniera per creare eroi sbagliati, questo è il punto proprio. E soprattutto perché è una struttura di polizia che ha il dovere di monitorare quello che scrivi, Orwell, ma stiamo Orwell, scherzando. Orwell, del resto, questo era il fondamento. Se io stabilisco un diritto, allora devo istigare qualcuno a sostenerlo. Quindi devo mettere in piedi una struttura pubblica statale per imporre un dovere. Vedi tu. Va bene, allora torniamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci tornati qui, sigletta della nostra rubrica Che punta la crisi. Sto vivendo una crisi c'è sempre ogni volta che qualcosa... Ragazzi, qui arriva il voto britannico e ieri siamo andati a fare il vaso di coccio come sempre sui mercati, tranne Atene, la peggiore. Negli stessi minuti c'era al convegno di Santa Margherita dei giovani industriali il premier che diceva: ma noi non rischiamo nulla, ma nel medio lungo periodo potrebbe essere addirittura un bene l'uscita della Gran Bretagna. E nel frattempo il mercato... avete presente Willy Coyote che cade nel canyon? Era così la borsa italiana. Allora, Mario. Ma è verissimo quello che dici, ripeto, mi colpisce questa propensione alla fragilità di questo paese, ma non mi stupisce, solo che ogni volta abbiamo delle conferme che sono abbastanza inquietanti, diciamo. Appena ad ogni stormir di fronde globali le banche italiane vengono prese e mitragliate. Naturalmente questo alcuni pensano i cattivi, il complotto, eccetera, cioè, sì, vabbè. No, ma sicuramente sarà quello. Poi ho sentito in settimana il ministro Padoan che ha detto: in realtà io credo che noi cresceremo di più di quanto le previsioni ci accreditano. Io non so da cosa il ministro ricavi questa sensazione, questa percezione, se solito ottimismo di maniera o quant'altro, e d'altro canto qualcosa bisognerà dire. Però, però anche la Banca d'Italia arriva da ribasso. Quindi ma infatti, è questo che mi colpisce, diciamo. Ma a parte questo, un altro elemento, abbiamo avuto i dati a consuntivo del mercato del lavoro nel primo trimestre. Esatto. Ora, al di là i 2,40, 3,30, pi greco e quant'altro, c'è un dato che... No, 2,40 e 3,30 significava, sì, i giornali che hanno dato l'annuncio, più 240.000 possibili, più 330.000, tutti dimenticandosi di dire che sono quindi i 5 trimestri accumulati. No, ma esatto, io sono rimasto veramente basito, vedevo un sottopancia scorrevole di Sky TG24, diceva mercato del lavoro... primo trimestre più 242.000 posti magari di lavoro. Ma chi siamo? Non è un sottopancia, era un sottosuola, direi, proprio sotto la suola. Era un sotto lato B, diciamo, che scorre. Allora, diciamo che i giornali, come sempre, adottano l'estremismo, più realista del re. Un dato della report trimestrale del mercato del lavoro, il totale delle ore lavorate nel primo trimestre è aumentato dello 0,5%, ma il PIL... è aumentato dello 0,3%. Con un complesso algoritmo si nota che la produttività per ora lavorata scende. È calata dello 0,2% nel trimestre. Scende. E questo, lo stesso dato, si trova su base annua. A seconda che si guardi la contabilità nazionale o altri dati, abbiamo praticamente una produttività delle ore lavorate che è negativa. Solo in parte si può attribuire al fatto che è diminuito il ricorso alla cassa integrazione e per quella via il numero di ore lavorate cresce. Quindi creando la finta, diciamo, l'illusione ottica che la produttività varia negativamente. Questo che significa? Intanto che c'è un persistente problema di produttività in questo paese, ma anche che probabilmente tutta l'ondata di assunzioni che noi abbiamo avuto negli ultimi 4 trimestri è ovviamente pompata dai sussidi. È questo, perché delle due l'una, ripeto, o la nostra produttività continua a stagnare, addirittura varia negativamente, e quindi questo è un enorme problema per noi come comunità nazionale, oppure questi sussidi ci hanno veramente drogato il mercato del lavoro. Quindi scioglieremo il dubbio nei prossimi trimestri. Certo. Poi abbiamo avuto i dati di produzione industriale. Però lasciami dire che se uno va a vedere anche sempre su questa nota, rilascia una nota trimestrale di Istat mercato del lavoro, l'aumento di totale occupati rispetto a quello congiunturale, cioè sulla fine dell'anno precedente, cioè in tre mesi più 0,1, è una roba da rilevazione sismografica, come devo dire. Come sempre, la cosa preoccupante è che però anche in questo primo trimestre continua l'andazzo, sia per gli anni 15-24, sia per 25-39, sia sotto i 50, la crescita è negativa degli occupati, che sale solo sopra i cinquantenni. Ecco, questo dato qua è un ulteriore dato di preoccupazione terribile, perché è confermato proprio da tutti i trimestri dell'effetto, tra virgolette, droga decontribuzione. Quindi noi continuiamo a essere un paese per anziani e non per giovani, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, assolutamente. Quindi poi il dato di produzione industriale che abbiamo visto in settimana è positivo, corretto per i giorni lavorati, però io sinceramente, guarda, devo dirti, sono anche un po' stanco di commentare. Vedremo. Esatto, perché adesso cominciamo a vedere come va il 23 giugno, anzi il 24 giugno mattina, quando ci svegliamo. Qualcuno non andrà nemmeno a letto, saranno i trader che penso che passeranno la notte nelle sale operative, la notte tra il 23 e il 24 giugno. Ragazzi, si balla forte se non c'è una vittoria. Fatemi però dare un dato giusto ieri dell'agenda degli skills, cioè delle competenze che l'Unione Europea ha emesso. Gli italiani purtroppo sono il peggior paese d'Europa per quello che riguarda la percentuale di giovani altamente educati che hanno già un impiego. Fate conto che la media in Europa è l'80,5%, cioè 8 su 10 lavorano, in Italia è il 52%, cioè poco più della media di quelli che non hanno gli skills, che vuol dire che questa tendenza a non valorizzare gli skill, a valorizzare solo l'esperienza, l'età, è strutturale e quindi ci accompagnerà anche per i prossimi anni. In questo senso la preoccupazione è strutturale e non è contingente. Però preoccupazione strutturale, io vedo oggi una cosa su Repubblica che mi fa fare un salto sulla sedia, perché noi in realtà, dopo aver, e adesso ci arriviamo perché dobbiamo 5 minuti parlare con un po' di banche, dopo aver detto all'Europa che da noi le regole europee sulle banche non valgono, stiamo smontando anche tutte le altre interne. Per esempio, andate alla Repubblica oggi, pagina 3, e trovate l'annuncio: pronto il decreto salva città, condonati i bilanci in rosso, cancellate le multe per Roma, Milano, Torino, Napoli e altri 4 centri che hanno sforato il patto di stabilità interna, sanatoria in vista anche per le province. Il debito non esiste. Allegria, non è, cari ragazzi, che... ma allora perché gli altri comuni, cioè tutti gli altri che invece hanno fatto i salti mortali, che hanno fatto i salti mortali per non sforarlo, avendo sopravvenienze attive che non potevano cambiare di utilizzo e quindi non potevano investire, essendo stato virtuosi, non hanno messo le sovraliquote, e adesso si vedono chi invece ha fatto mercimonio, turpe, schifosa violazione del codice penale per prendere i voti, hanno sforato i limiti, e cosa facciamo? Li saniamo? Questa è l'Italia che vi piace? Questa è l'Italia della politica che vi dice che il debito non conta, che sono gli altri cattivi, che noi rispettiamo le regole. Le regole dei ladri! Scusate se alzo la voce. Andate a pagina 3. Io, se fossi il sindaco di un comune e il contribuente di un comune che non è in questa bella lista di campioni sanati, direi: ma perché? Ma perché sono fesso? Da domani vado in deficit anch'io. Perché questo è l'effetto indotto. Scusate, chiusa parentesi. Non solo, ma quando poi ti presenti sul mercato e pretendi di prendere a prestito soldi per fare investimenti, ti dicono: beh, tanto poi non me li ridai, quindi perché dovrei mai concederti fiducia? Questo è un po' il tema sul futuro. Si sta parlando anche, diciamo, nelle more della campagna elettorale, della ristrutturazione del debito di Roma Capitale. Il grosso è praticamente con la CDP, la quale per statuto dovrebbe ristrutturare i mutui a invarianza di valore attuale netto. Esatto. Quindi se tu allunghi la scadenza, comunque devi compensare con l'interesse da un altro lato, non è che tu devi, purtroppo c'è questa sorta di dire facciamo come la Grecia. Allora può darsi anche che questa sia la strada per carità. Però il fatto che se ne parli in campagna elettorale mi viene un po' da ridere. I due candidati al ballottaggio hanno messo chiaramente sulla loro progetto di rinegoziare il debito, entrambi andiamo bene, però credo che non avranno difficoltà, visto che il governo oramai fa questo bell'annuncio di cui a pagina 3. Ragazzi, una settimana, scegliete voi a rotazione tutti e tre di quale delle situazioni bancarie in corso più ci colpisce, tra le novità di Cesena Rimini, le novità tra Vicenza e Veneto Banca, tra quello che si sente della pentola in ebollizione tra la Popolare di Milano e Banco Popolare, il ritardo, io mi posso dire questo, il ritardo degli azionisti di Unicredit sulla scelta della nuova governance è, ai miei occhi, pazzesco. Con quello che capita sui mercati, la rilasciare dichiarazioni come quelle che ha pubblicato il Sole 24 ore, 48 ore fa, non sceglieremo prima della fine di luglio, è una roba che io leggo e dico, troveranno neanche, cioè abbiamo bisogno di perforare sottoterra del titolo. Cioè, poi scusami, la cosa, adesso lo vediamo ampiamente, si sceglie un cacciatore di teste. Il cacciatore di teste è la foglia di fico dietro la quale si svolge il braccio di ferro tra gli azionisti. Quando gli azionisti sono riusciti a dirimere i loro contrasti, vanno dal cacciatore di teste, gli procurano il nome e il cacciatore di teste emette fattura. Veridica. Questa è la veridica realtà. Descrizione. Per cui, cioè, alla fine, diciamo, veramente, brutta cosa questo continuo rinvio. È vero che Ghizzoni mantiene la pienezza delle deleghe operative, capo azienda esiste, però è altresì vero che l'effetto di incertezza quelle che sono dei palesi contrasti tra azionisti nuociono alla banca, SIFI europea, alla nostra italiana. L'unica SIFI che abbiamo in Italia, per cui fate presto e non andate in giro a dire ci vediamo alla fine di luglio, perché a fine di luglio è tra un'era geologica. Carlo Alberto, ma tu che ne pensi di questo meraviglioso aumento di capitale di una banca, la Veneto Banca, che nelle 1100 pagine di prospetto dice chiaramente che non hanno rispettato e continuano a non rispettare il minimo del coefficiente di capitale necessario, B, che dateci soldi, però noi vi dobbiamo dire, ve lo diciamo per oltre 120 pagine, che siamo pieni di rischi come una bomba atomica il cui processo fissile è ancora in evoluzione, non è stato bloccato. Vi diciamo anche che l'aumento del capitale non serve matematicamente a bloccare il bail-in, perché anzi potrebbe con ogni probabilità comunque avere il bail-in, quindi ci vuole altro. Ma che senso questo fa autorizzare una cosa simile? Non avrebbe dovuto essere autorizzato quel prospetto, che tra l'altro è scritto in maniera chiara, anche se è lunghissimo, dimostra che sì, è scritto in maniera molto più chiara di quello di Vicenza, diciamo, beh, diciamo secondo me c'è qualcuno che l'ha scritto nel senso che hanno bisogno di pararsi il fondo adesso hanno usato veramente la ghisa per pararsi il lato B, diciamo, esattamente una mutanda di ghisa finanziaria. Nel prospetto c'è anche scritto il rischio che un meteorite colpisca la sede centrale della banca, penso, perché così sul piano legale sono coperti. C'è scritto che in caso di Brexit anche Atlante si sfila, questo va ricordato con estrema chiarezza. Il 24 di giugno potremmo avere, oltre che ad altre cose, anche un bail in Italia, perché a questo punto è chiaro che Atlante invoca le market adverse condition, cioè le condizioni di mercato avverse che non consentono di intervenire. No, quel prospetto è lo specchio, secondo me, della situazione del sistema bancario italiano, sì. Dove sei costretto a scrivere per l'Europa che ti sta guardando, esatto. Cosa che in Italia non vogliono leggere. Non avresti scritto, non ma è così, leggere. È quindi così. Io lo conserverò, lo faccio vedere ai miei studenti, perché è pietra miliare di un'ammissione sotto minaccia, diciamo, di pistola, su una cosa che invece il dettato del politicamente corretto non vuole ammettere. Cioè, la cosa che quel prospetto sia per la prima volta così, retrospettivamente è la vera ragione per cui Consol dovrebbe andare a casa, ma retrospettivamente sugli altri, più che per scenari probabilistici, comunque io apprezzo comunque che il report abbia sollevato il problema e sono d'accordo con Zanetti che dice che deve andare a casa. Sì, a patto però di non fare dello scenario probabilistico, esatto, il nuovo feticcio, perché si chiama per probabilistico, non meccanicistico, deterministico. Purtroppo no, ben altre. Vorrei evitare che, diciamo, come sempre in questo paese, di 60 milioni di esperti su tutto, ci si polarizza tra Guelfi e Ghibellini e chi ne sa di meno urla di più. E non solo, è che lo scenario probabilistico debba essere stabilito matematicamente dall'autorità di controllo, come dire, la probabilità la decido io, e invece la probabilità è estrema, come dire, interpretazione soggettiva del mercato, scusate, è proprio uno dei principi pilastri della diversa interpretazione di un mercato libero. Guarda, la verità è una e una sola, non è un problema di scenari probabilistici, è il problema che le obbligazioni subordinate non andavano collocate a retail con quel mispricing. Quindi abbiamo avuto mis-selling e mispricing. Con tanto di Q&A della stessa Consob, che aderendo alle cose ESMA a questa domanda rispondeva: infatti non bisogna farlo. Della signoria vostra, diciamo. Traduciamo per gli italiani, mis-selling vuol dire vendita. Inappropriata rispetto all'acquirente. Che ha violato i diritti dell'acquirente di essere informato. Esatto. E mispricing, prezzo inappropriato che non riflette il rischio. Poco ci aggiungo anche taglio inappropriato, perché vendere obbligazioni bancarie a 1.000 euro al taglio invece che a 100.000, altro chiarissimo tentativo di turlupinare la vecchietta sotto casa. Ricordiamo chi fu a vendere una obbligazione subordinata upper tier 2 con taglio da 1.000 euro al retail. Poi voi indovinate, ma settimana prossima mi dite chi può essere stato e vi diamo una bambolina. Una bambolina. Gonfiabile, se vi interessa. No! Gonfiabile qui, niente di gonfiabile. Torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci tornati qua in diretta in questo sabato 11 di giugno, sono 10.30, i primi 45 secondi con i compari di Conti da Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ed andiamo al punto sulla divisione ribadita dalla sezione lavoro Corte di Cassazione tra mercato lavoro, dipendenti privati, dipendenti pubblici. Per i dipendenti pubblici, dice la sezione lavoro Corte di Cassazione, vale la norme precedenti agli interventi di riforma legge Fornero e Jobs Act sui licenziamenti, perché l'impugnativa era sul licenziamento di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture che faceva il doppio lavoro, licenziato disciplinarmente, contenzioso sulla procedura, errore nella contestazione disciplinare, errore, e di fronte a quel punto alla mancata indennità si va in Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione dice no, vale comunque il vecchio articolo, perché ribadisce la Corte di Cassazione, senza norme di collegamento, di armonizzazione, qualunque intervento sulla riforma del diritto del lavoro, sullo statuto soprattutto dei lavoratori, la vecchia legge 300 del 70, se si vuole intendere applicarlo al mondo pubblico, ha bisogno di norme esplicite di armonizzazione. Mi tocca spiegare che questa è una vicenda che dal punto di vista normativo ha complessi, lunghi precedenti. La Corte Costituzionale innumerevoli volte con sentenze negli anni ha confermato che restano a suo giudizio, malgrado la contrattualizzazione di tipo privato che c'è anche nel mondo pubblico dal 2001, restano però molti elementi in base ai quali bisogna considerare non omologato il rapporto di lavoro pubblico e privato in ragione dell'articolo 97 della Costituzione, l'autonomia, l'indipendenza che deve avere la pubblica amministrazione, l'assunzione per concorso, eccetera, eccetera. Molte volte la Corte di Cassazione ha ribadito questo tema e l'anno scorso a novembre aveva fatto una sentenza in cui diceva però si applicano le nuove norme, ma aveva ribadito anche in quella sentenza ma ci vogliono quelle di attuazione, caro governo, di armonizzazione. Questa volta la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha, come dire, preso atto che questo governo, che infatti ha sempre detto noi non la applichiamo al mondo pubblico, le norme di armonizzazione non le fa, e ha detto vabbè, e allora sapete che c'è, si applica la vecchia norma e non la nuova. Quindi confermato, il mondo del lavoro avrà le regole, le tutele sul licenziamento che c'erano prima delle riforme, e solo i privati quindi avranno la reintegra giudiziale limitata al solo caso del licenziamento discriminatorio. Ecco, è giusto questo? Allora, per parlarne vediamo un pochino cosa ne pensano innanzitutto i nostri ospiti. Abbiamo con noi Marco Menegotto, che è ricercatore di ADAPT, l'associazione per gli studi internazionali comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Grazie di essere con noi. Sì, buongiorno, grazie a voi. Cosa ne pensa? Allora, qui c'è un contrasto giurisprudenziale forte, come ha già detto, tra una sentenza del 2015 e quella di giovedì scorso, che quindi sta creando non poche turbolenze nella dottrina, nel dibattito scientifico, ma anche sul piano politico. È vero però che il testo unico del 2001, che regola tutta la materia, no, del pubblico impiego, dice che lo statuto dei lavoratori, quindi l'articolo 18, si applica nel pubblico impiego, e gli si applicano anche le successive modificazioni e integrazioni. Sì, infatti ho scritto anche io sul Messaggero, rinvia esplicitamente alla legge 300. Uno dice quindi se la modificano vale la modifica. C'è un rinvio che si chiama mobile. Dall'altra parte, come aveva già anticipato, la legge Fornero delegava così il Ministero della Funzione Pubblica a adottare appunto dei provvedimenti per armonizzare, provvedimenti mai adottati. E quindi la precedente sentenza dell'anno scorso diceva, nonostante la mancata adozione di questo provvedimento, siccome c'è un rinvio in una legge dello Stato, a questo punto si dovrà applicare l'articolo 18 post Fornero. Giovedì invece la sezione lavoro, con questo deposito, ha ribadito il concetto precedente, quindi l'articolo 18 come cristallizzato nella versione del 70, quindi senza la rivisitazione con l'apertura alle tutele indennitarie, diciamo così. Ma quel testo esiste ancora? Perché francamente come fa una Cassazione a farli? Cosa fai? Fa la resurrezione di testi giuridici? Fa un rito voodoo, praticamente. Fa un rito voodoo, cioè Lazzaro 18, alzati e cammina. Lo so che sei morto, ma sepolto e straputrefatto. Ma come fa la Cassazione a far rivivere un testo emendato e cancellato? Chiedo, No, allora, l'articolo 18 oggi, anche dopo il Jobs Act, rimane è consegnato per gli assunti prima del marzo 2015 nella versione post Fornero, diciamo così. Il problema è appunto dire... No, ma ricordiamo all'economista Carnevale Maffè, ricordiamo all'economista e non giurista Carnevale Maffè, che il mondo del lavoro, dopo questa sentenza della Corte, è separato, ma non in due, ma in tre. Perché all'atto delle riforme tutti quelli che avevano un contratto precedente con la vecchia disciplina restano con la vecchia disciplina, altro motivo che io ho criticato. Quindi non è che il testo non c'è più, caro Carlo Alberto, c'è e vale per un bel po' di lavoratori, tranne gli assunti dopo, privati. Poi adesso c'è questa terza fascia, tutti pubblici, per cui vale nunc et semper, sembrerebbe, senza norme di armonizzazione. È così, Menegotto? Sì, esattamente. Si è detto che appunto la pubblica amministrazione è regolata da principi di buon andamento, imparzialità e quant'altro, e quindi gli interessi collettivi sono diversi rispetto a quelli dell'impresa privata, e perciò solo si dovrebbe limitare appunto la portata della Fornero all'impiego privato, e quindi evitare che poi le pubbliche amministrazioni si trovino a dover erogare risarcimenti a soggetti licenziati ingiustamente. Ma voi ad ADAPT che ne pensate di questa bella tripartizione del mondo del lavoro sulle regole dei licenziamenti, ma anche quelle di assunzioni? Perché significa che nel pubblico impiego, per esempio, il contratto tutele crescenti non c'è, non ci sarà. Io ero a favore che ci fosse, invece loro mi dicono di no, ma è giusto? Che cavolo di mondo di lavoro è ipersegmentato? Sì. Si crea un ulteriore dualismo, ci saranno nel privato colleghi anche sulla stessa scrivania, uno assunto prima del marzo 2015 per cui va con l'articolo 18 e uno assunto dopo il marzo 2015, quindi va con il tutele crescenti. Ma a questo punto, se si arriverà a dire, come pare in decisione del governo, che il tutele crescenti non si applica al pubblico, certo. ma questo la sentenza non lo dice, non lo può dire perché è un caso precedente, certamente. Allora si creerà un ulteriore dualismo nel mercato del lavoro. Ed è qua che io infatti ho scritto, e molti sono stati, mi hanno un po' criticato, io ho scritto prendiamocela con i politici, perché dalla Corte Costituzionale alla Corte di Cassazione dicono sempre: ragazzi, dovete scrivere voi con chiarezza quello che volete fare tra i dipendenti pubblici e interlocutori. Manca allora, a questo punto un intervento. Siccome ho visto che tutti se la sono presa con i magistrati, è la politica che sa benissimo da anni che su questa materia la Corte Costituzionale di Cassazione hanno accumulato una richiesta chiara e fa finta di non vederla. E poi il governo è stato felice di questa sentenza della Corte di Cassazione, svia sui giudici le critiche di chi obietta, ma in realtà è la sua linea. Il governo l'ha sempre pensato, anche se non l'ha mai scritto, perché ha ragione in questo Ichino, che invece vuole l'omologazione, che fa notare che la norma esplicita che prevedeva la non applicabilità del nuovo regime dell'articolo 18 al mondo pubblico era stata poi ritirata, tanto che Ichino dice: quindi ho ragione io? No, non hai ragione tu, Pietro, purtroppo, perché non è stata sostituita con uno che invece dice si applica. Quindi su questo secondo me è la colpa della politica. In tutto questo però c'è un altro pezzo di ragionamento, perché si dice: no, i sindacati così sono contenti, moment, aspettiamo un po', perché la CGIL e la UIL e altre cobas sì, ma noi stessi, quando ci fu la sentenza l'anno scorso, un anno fa, pochi mesi fa, dicembre scorso, facemmo una ricognizione del mondo sindacale, e la CISL, Funzione Pubblica, che non è proprio l'ultimo dei sindacati nel settore, diciamoci la verità, disse: ma piantiamola lì, noi non chiediamo niente di meglio al rinnovo dei contratti, che però il governo deve fare il rinnovo dei contratti veri dopo anni di stop, di accettare e trattare anche la questione dell'omologazione, no? Dei diversi istituti del diritto del lavoro tra pubblico e privato. Abbiamo richiamato con noi il segretario nazionale della Funzione Pubblica della CISL per sentire se però vale ancora quell'opinione, ma comunque è superata dalla sentenza e da quello che dice il governo. Faverin, grazie di essere con noi. Grazie a voi. No, vale ancora, a maggior ragione, perché si vede che un governo giovane e cosiddetto innovatore a parole non ha capito che riallineare per i cittadini, per le persone, per le imprese e per il contenuto lavoro un unico mercato lavoro, ingresso e un'uscita, è un obiettivo fondamentale di efficienza, d'accordo, che non ha ragioni di nessun tipo. Ecco perché i giudici dicono: caro governo, perché non vuoi riallineare? Se non vuoi riallineare, prendiamo i fantasmi del passato e lasciamo credere ai cittadini. Tra l'altro, hanno fatto adesso, la settimana prossima, portano riadattata e rivista e corretta la norma sui furbi del cartellino, perché con l'occasione, questo iter, non hanno cominciato a discutere anche con le parti sociali dell'omologazione, come la Fornero diceva? E poi, come ha detto giustamente lei, ma rispetto anche alle nuove assunzioni e al reclutamento, ma già Biagi ci provò allora, perché non mettere un sistema, un meccanismo, un criterio che l'ingresso sia identico pubblico e privato? Faccio un elemento molto semplice: sanità pubblica, sanità privata, terzo settore, fanno lo stesso contenuto assistenziale. Che cosa devo spiegare a un lavoratore del terzo settore della sanità privata rispetto al suo regime di assunzione, quando hanno lo stesso contenuto di lavoro, un contratto che prendono meno e un rischio diverso? Ma è un paese non di innovatori, di persone che hanno paura di disegnare un cambiamento, un'innovazione organizzativa, dove le persone e la professione vanno trattate tutte allo stesso modo. Ti dai da fare, sei importante, ci credi nel cambiamento, tutti ti aiutano, pubblico e privato, e hai le stesse regole di ingaggio e di reclutamento. Semmai c'è da capire come mai l'intervista stamattina del ministro Madia dice: l'abbiamo fatto perché altrimenti i politici potrebbero licenziare i dipendenti. Allora, su questo punto fermiamoci un secondo. Per me applausi fino a qui a Giovanni Favarin, oltre che il ringraziamento a Marco Menegotto. Torniamo con Giovanni Favarin tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. E Eccoci tornati qua per interrogarci sul effetto di questa sentenza che, contrariamente, almeno in apparenza, a quanto dichiarato dalla stessa Corte di Cassazione pochi mesi fa nell'autunno del 2015, adesso, in questa settimana, deposito una sentenza che dice no, ai lavoratori pubblici non si applica il nuovo regime riformato prima dalla Fornero, quindi governo Monti, e poi col Jobs Act dello Statuto dei Lavoratori, articolo 18, quindi licenziamento. Abbiamo visto con Marco Menegotto quali sono i presupposti di diritto per i quali le corti dicono alla politica dovete fare norme di armonizzazione. Abbiamo sentito il governo non le fa, anzi è contento, e Giovanni Favrini, segretario nazionale della funzione pubblica della CISL, che dice c'è un errore perché le cornici di diritto andrebbero omologate. Che dite voi, Carlo Alberto e Mario? Ma io dico che mi sembra una questione molto ideologica e molto poco pratica e organizzativa. Io, se fossi un imprenditore pubblico, non chiederei necessariamente un mercato unico, chiederei un mercato chiaro, cioè chiederei delle regole chiare, il più possibile limitate, cioè non chiedo alla legge di stabilire le condizioni con cui io acquisto un fattore produttivo che si chiama lavoro, chiedo di tutelare le persone, ma non il lavoro, perché quello invece è oggetto della negoziazione libera. E francamente questo grande dibattito dell'unicità del mercato non mi convince, perché a monte il mercato dei fattori produttivi non deve essere necessariamente unico, deve essere chiaro, deve essere ben segmentato. Quindi per me la questione, sinceramente, in termini economici non è convincente, sembra uno scontro di ideologie. Quello che serve è stabilire regole chiare, in modo tale che l'imprenditore pubblico possa decidere di fare insourcing o outsourcing, spin-off, cioè prendere decisioni organizzative ai fini di efficienza. E invece ci dimentichiamo che l'obiettivo delle tasse è pagare dei servizi efficienti, e stiamo difendendo una questione, dal mio punto di vista, che in termini reali, cioè numero dei licenziamenti pratici, è ridicolmente irrilevante, perché oggettivamente stiamo parlando di numeri infinitesimali rispetto ai milioni. Mentre molto più interessante ai fini di efficienza è stabilire regole chiare di acquisto di quel fattore produttivo che si chiama lavoro. Questo è il mio pensiero per il bene della Repubblica, non per scontri ideologici. Per il bene della Repubblica e i licenziamenti economici, quelli, sia quelli individuali che quelli per genere, eccetera, che sono possibili con le norme modificate articolo 18, al pubblico non saranno possibili. Quindi è come vedi, ragionamento. No, su questo sono d'accordo, ovviamente. Stavo parlando, la mia critica andava al principio che deve essere unico. Io capisco il fascino del problema, ma guardate che il monopolio delle condizioni dei fattori produttivi non è mai una bella cosa. Quindi sto chiedendo di abbassare il livello di normazione al minimo indispensabile, in modo tale da consentire differenziazione dei contratti verso l'alto. Però il problema è che, visto che parliamo dell'articolo, allora l'articolo 18 non serve a dimensionare gli organici nei grandi numeri, ma serve molto precisamente per colpire situazioni, no, sul piano disciplinare. Spesso, perché se tu devi gestire una sovrabbondanza di organici nel privato, hai altri strumenti. Ah, certo. Hai, no, la legge 223. Quindi il problema qual è? Come si conciliano i proclami di Renzi, che dice 30 giorni i furbetti del cartellino sono fuori, con il fatto che tu devi istruire, devi comunque avere delle procedure garantiste a difesa del lavoratore incolpato, come si concilia poi con questo diritto alla reintegra? No? Perché a questo punto di vista è quello uno dei problemi. Certo. E quindi questa segmento, io capisco quello che sta dicendo Carlo Alberto e lo condivido per certi aspetti, però mi risulta difficile vedere l'ondivaghezza di questo governo che, da un lato, con la stessa magia, reiteratamente, ma più volte anche nelle scorse settimane, ma non sia mai, i dipendenti pubblici non hanno lo stesso trattamento dei dipendenti privati, e poi contemporaneamente, ora basta, mese al massimo li buttiamo fuori. Che dice Favarin? Beh, anche dal punto di vista economico io ho dei dubbi. Stiamo parlando di semplificazione di regole rispetto ad anomalie, quelle del licenziamento. Quindi non sto dicendo che le regole devono essere uguali perché è un fattore ideologico di diritto civile. Sto dicendo che rispetto a questo dibattito il tempo e le ore spese e il ricorso ai giudici nella differenziazione fanno perdere tempo rispetto al focus vero che è come si fa a innovare? Caro Alberto, su questo sta convenendo. Sono d'accordissimo, il vero problema è efficienza, non è una questione di ideologia, oh, quindi bene, su quello siamo bene, d'accordo. Bene, perfetto, però nelle sedi negoziali o in altri contesti, o come preoccupazione di chi fa il dirigente pubblico o privato, sentire parlare e ragionare e fermarsi a quello che prevedeva il 97 di allora, in una Repubblica completamente cambiata, il 70 e successivi, si parla di cambiamento e l'organizzazione è anche cambiamento. Allora, quanto tempo dedico io come dirigente rispetto a una prassi diversa, non ideologica, tra pubblico e privato? Invece dovrei occuparmi di innovazione, di cambiamento, motivazione, sviluppo, produttività, fattori. Questo è il ragionamento, questa è la questione che non viene toccata e su questo un governo giovane e preparato, si era annunciato perché era rottamato i precedenti, doveva mettere il focus. Io come cittadino, se ho un figlio che lavora nel pubblico o nel privato, lo vorrei in un ambiente in cui il dirigente pubblico o privato, rispetto alla sua competenza, gli dà occasioni per crescere, per innovare, non chiuso in un dibattito tra un reclutamento di un tipo e là, tutto qua. Se non facciamo un passo così, la produttività di sistema che è fatta da un buon pubblico e da un privato coraggioso non decolla, non va avanti, altro che 0,00 oppure 80 euro dati a chi piace a me nella dinamica contrattuale un po' peronista. Non funziona così, tutti dobbiamo fare un salto di qualità e il salto si fa dando risorse alle occasioni, all'imprenditorialità delle persone, della loro professione, al lavoro in team, al merito, alla motivazione, a tutti quegli aspetti che fanno nel microsistema, nella grande azienda, territorio collaborativo tra istituzioni pubbliche e privato. Quindi anche tra dirigente pubblico e privato, dover stare in un grande mercato in cui il mio compito è innovare, darmi da fare rispetto alla filiera che voglio servire, famiglie e imprese, mi vuole occupato in un ambiente di innovazione di forza che non ha niente a che fare col dibattito di prima. I lavoratori però, pubblici sull'articolo 18 se ne fottono, si domandano se devono tenersi l'articolo 18 oppure avere un contratto per quelli che lavorano. Io in sintesi, visto che dobbiamo chiudere la giornata radio, dico che questa scelta, in realtà i magistrati hanno passato la palla, ma in realtà il governo da sempre su questo ha deciso di sposare la posizione della CGIL, funzione pubblica, e non della CISL. Io personalmente avrei preferito mille volte questa che avete sentito espressa sintaticamente da Favorin. Liquido, ma certo, non c'è mobile, non necessariamente unico. Torniamo dopo GR, grazie a Giovanni Favorin. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Bye bye Europa? Londra decide, dentro o fuori. Il 23 giugno il Regno Unito decide se rimanere nell'Unione Europea o lasciarla dopo 43 anni. Comunque vada, il referendum britannico ha già prodotto un terremoto che scuote il progetto europeo. Dal 17 al 25 giugno, Radio 24 vi racconta come si è arrivati a questo punto, chi rischia di più e cosa accadrà dopo il voto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta alle 11:08 primi 25 secondi in questo sabato 11 di giugno, San Barnaba, col compare di Conti la Belva, Oscar, Mario, Carlo Alberto. Carlo Alberto, Carmelo Maffè, che ha tentato di non capire bene questa cosa delle sentenze, però gliel'abbiamo spiegata ogni tanto, bisogna fare, sapete, duro di i professori della Bocconi, che sono un po' così. No ragazzi, sto scherzando, sia ben chiaro, adesso mi prendete sul serio. No, comunque alcuni mi hanno mandato sms anche sul mio telefonino dicendo, ma questa roba che hai segnalato di Repubblica pagina 3, è su Repubblica pagina 3, non è che io l'attribuisco al governo. La sanatoria ai grandi comuni che hanno sfondato il patto di stabilità, cari sindaci degli altri comuni, fatevi furbi, insorgete, perché altrimenti, perdonatemi, i vostri cittadini contribuenti avrebbero il diritto di inseguirvi a casa. Cioè, se vi hanno messo, oltretutto, perché non è vero che tutti quelli che hanno rispettato il patto poi non hanno messo le sovraliquote, molti hanno rispettato il patto mettendo le sovraliquote. A questo punto, cari contribuenti dei comuni, auto-organizzatevi, fate le ronde sotto casa del sindaco, spiegategli il perché, visto che i sindaci invece che non hanno messo le sovraliquote e che hanno speso allegramente, tanto la sanzione non la pagano, quindi non la pagano i loro contribuenti. Siete due volte fessi. Noi che rispettiamo le regole, ci sentiamo dire che siamo noi perché non paghiamo le tasse e così via, noi le paghiamo fino all'ultimo. Lo Stato ha i propri ladri fiscali, perché questi sono i comuni che violano le regole, li fa la sanatoria. È lo stesso Stato che fa la predica a noi dicendo che dobbiamo pagare pagare fino all'ultimo centesimo. Ma nel mondo pubblico non è così. Si scrive una regola per violarla, per stracciarla, per depenalizzarla e per sanarla. Questo è lo Stato che vi piace, che dite, ah, i grandi valori dello Stato, quelli del ladro contraffattore, del violatore di norme, del falsificatore di norme. Questo è, mi dispiace, mi incazzo molto, non per fare operetta, ma perché non esiste accettare l'idea che su una cosa così sacra, cioè le regole di convergenza del bilancio, ci siano gli amici del governo sanati, che tanto avranno contatto con una trattativa riservata ai nanci che venivano sanati, che vengono sanati sotto elezioni. Capite? È uno schifo. Comunque, stavamo parlando dell'articolo 18, distinto tra pubblici e privati. Sentiamo come la pensano alcuni di voi. Cominciamo con Damiano da Savona. Damiano. Buongiorno, Sor Giannino. Piacere di sentirla, la seguo sempre con molto interesse, lei e i suoi collaboratori. Lavoro in sanità, sì, pubblica, chiaramente. Stata d'accordo sul fatto che se c'è il dolo è giusto che anche noi si possa essere tranquillamente licenziati, che ci sia proprio mano libera. Però rivendicherei anche che dopo 7 anni che non vediamo una lira e continuiamo a lavorare, lo stop dei contratti, almeno per quello, per me e per i miei colleghi lavoriamo, e tanto, la maggior gratitudine agli utenti, nonostante in sanità se ne parli malissimo. Io ricevo molte grazie, e non solo io, anche i miei colleghi. Però io sarei d'accordo sia sul licenziamento, per dolo e non colpa, ma anche per un contratto decente, perché è inutile però andare avanti con questo andazzo. Ecco il punto, perché è ovvio che con lo stop al rinnovo contrattuale per anni e anni. Tra l'altro io credo che il governo da sempre abbia deciso che non si applicasse la riforma del jobs act ai pubblici, anche perché, come si è visto per gli stanziamenti, guardi, come si vede per gli stanziamenti 2016, la legge di stabilità, in realtà non intende mettere mano al rinnovo dei contratti, perché i soldi non bastano. Sì, ma cioè, se mi vuole dare tra i 6 e i 10 euro questi signori, se mi vogliono dare tra i 6 e i 10 euro lordi, io preferisco che li usino per quelle persone che, finiscono nel Mediterraneo in questo periodo. Va a suo onore, credo. Fammi un contratto decente, e poi se io tra l'altro sbaglio, se c'è del dolo, mi mandi a casa, come giusto che sia. Grazie Damiano. Sentiamo cosa pensa Gino da Manfredonia. Buongiorno a tutti. Mi ha già chiamato per nome, quindi che mi presenti. Senta, io l'ascolto sempre, comunque, perché ritengo la sua trasmissione molto interessante. Ora, venendo subito al dunque, sì, io ho 78 anni e credo di avere una buona esperienza nel campo lavorativo, data l'età e avendo lavorato tutta la mia vita. Le dico quella, la mia opinione è questa. Chi occupa un ruolo in cui la platea che deve trattare è molto vasta, come può essere quello statale, lui ha maggiore responsabilità nei confronti degli altri, quindi non vedo perché lui deve avere un trattamento di favore, un trattamento diverso da un altro privato. Lui deve avere gli stessi doveri, stessi diritti, stessi doveri, ma soprattutto maggiore responsabilità. Allora, Gino Manfredonia dice: a differenza di quello che si immagina con la tutela particolare ex articolo 97, in realtà è che sono le responsabilità maggiori, quindi dovrebbero essere maggiori anche i doveri, più che maggiori i diritti. Ragionamento sul quale, secondo me, bisognerebbe che ci pensassero i grandi signori del diritto italiano, perché a me pare che abbia un certo fondamento logico. In termini giuridici del nostro ordinamento non è così. Ma io credo che abbia ragione Gino Manfredonia. Pietro da Roma come la pensa? Pietro da Roma la pensa esattamente come l'ascoltatore che abbiamo appena sentito. Penso anche io che l'aggravio di delle sanzioni, proprio perché si ha a che fare con il pubblico, dovrebbe essere preso in considerazione. Ci tengo a dire da cittadino normale che l'insieme dei comportamenti emersi durante, qui gente che il cartellino esce, fa sì che quando ci si reca in questi luoghi pubblici per avere dei servizi, spesso non si ottiene, quindi si hanno non un danno, tre, e glieli dico subito. Uno, io cittadino non riesco a ottenere il servizio per il quale sto richiedendo. Due, pago un soggetto, perché lo pago io con le mie tasse, pago un soggetto, gli do uno stipendio per una cosa che non fa. E terzo, vado a togliere il lavoro probabilmente a una persona che prenderebbe il proprio ruolo, il proprio lavoro molto più seriamente. Allora, caro Pietro, grazie anche a te. Quello che vorrei fosse chiaro è che noi non intendiamo accendere la guerra tra poveri, per così dire, dipendenti privati contro dipendenti pubblici, perché essendo noi sempre prima fila nel dire rifiutiamo il divide timbra dello Stato mettendo i contribuenti, per esempio autonomi contro dipendenti e così via, non lo facciamo. Però il ragionamento, quindi, più che eccitarci nel dire al pubblico una massa di ladri, non funzionano le cose, è quello di ragionare su un mondo in cui le asimmetrie del mondo del lavoro si moltiplicheranno invece che diminuire. E quindi l'effetto di questi anni di sventata, di avventata, sventata e avventata, ma soprattutto sventolata innovazione da questo punto di vista del mercato del lavoro, ci consegnerà un mercato del lavoro più frammentato, molto più frammentato di prima. E quindi vedremo cosa vuole dire, dica, perché non voglio che dire altro che questa battaglia è una battaglia persa. Però, purtroppo, diciamo anche che allora questa riforma della pubblica amministrazione, su cui tutto il governo, soprattutto il ministro Padoan, mm-hmm. dicono che è l'architrave della futura crescita potenziale di questo paese, mm-hmm. quando uno, mancano ancora una tonnellata di decreti attuativi, due, rimane questa segmentazione che è status quo ante, mm-hmm. cioè io vorrei capire all'atto pratico dove e come contribuirà alla produttività totale dei fattori questa famosa riforma della pubblica amministrazione, perché io non la vedo, io non vedo il cambiamento. Quindi, cioè, sotto che aspetto? Spiegatemelo, perché io non ci arrivo, sono limitato e non ci arrivo. Posso citarvi anche due dati del World Economic Forum che parla della sostituzione robotica di circa 5 milioni di tasks professionali, cioè di posti di lavoro nei prossimi 5-7 anni. E dovremmo parlare di queste cose qua, signori, non di tutele crescenti o di articolo 18. L'ambito nel quale quella previsione è che il reddito ambito? Universale di base, diciamo, si arriva allora. Questa ambito, è la... sì, sì, sì. No, si arriva a capire che quello che conta non è tutelare il posto di lavoro o le condizioni del posto di lavoro. Tutelare la persona, mi sta bene, ma dare grande libertà organizzativa per il disegno e l'esecuzione dei processi. Siete dei poveri neoliberisti, illusi. No, levatevelo dalla testa, levatevelo dalla testa. Torniamo tra un minuto e cambiamo argomento. L'argomento diventa consulenti dipendenti finanziari, tanto per cominciare, per capire, oltre perché non cadere vittima delle strategie, dell'interesse di chi vi propone di comprare prodotti perché c'è una bella retrocessione su quanto poi voi gli date, ma soprattutto per capire, iniziare a capire che cosa non comprare di questi bei tempi che sembrano quelli di una notte degli orrori. A tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci tornati, cari ascoltatori. Allora, ritualmente noi torniamo sul punto delle condizioni, per così dire, di sistema, che vi devono essere chiari. Cari amici, quando volete decidere dove investire, cosa comprare, che tipo di asset class considerare più o meno, noi qua come sempre non diamo risposte cosa comprare, cosa meno, non siamo un consigli per gli acquisti, ma pensiamo che sia fondamentale mettervi in guardia sul fatto che dovete capire che vi conviene avere un consulente indipendente, al di là dei promotori delle rette bancarie che, come avrete capito, spero, hanno un conflitto di interesse ingenito e sono indotti a offrirvi dei prodotti in ragione di quello che dovreste aver capito è fondamentale nell'industria del risparmio gestito, cioè la percentuale di commissione e quindi di retrocessione poi al promotore, e il consulente dipendente accetta l'idea che è fee only, quindi è pagato solo per la verifica di quello che vi porta come consiglio rispetto a quello che poi vedrete nel tempo. E quindi ci torniamo, l'intenzione è di tornarci spessissimo con la vera e propria rubrica, e abbiamo con noi appunto una pioniera della consulenza finanziaria indipendente nel nostro paese, Ida Pagnottella, perché quando dico pioniera dico che appunto si è impegnata, malgrado sia giovanissima, parecchi anni fa nell'intraprendere questa scelta, prima che lo facessero tanti altri colleghi, quindi insomma c'ha più di già di 10 anni di esperienza alle spalle. È nata in Canada, ex vive in Italia dal 1987, e si è poi specializzata dopo la laurea che aveva preso altrove alla SDA Bocconi, quindi ha fatto anche lei, prima di fare la consulente finanziaria indipendente, promotore finanziario, è stata freelance come insegnante anche in diverse università italiane. E grazie di essere con noi per ritornare su questa nostra battaglia. Spero che avrà tempo per farlo sistematicamente nel corso delle nostre trasmissioni. Buona giornata, Ida. Buongiorno a tutti. Com'è che ti è venuto in mente di fare la consulente finanziaria indipendente? Perché un po' dai miei genitori, aiutando loro, è partita la mia passione per i mercati 20 anni fa. Ho cominciato a seguire nel 92. Poi, io non sono un venditore, non per forza in banca bisogna vendere, però a me piaceva poter anche consigliare un terreno, ecco, oppure comprare una casa all'estero, ecco. Cioè, mi piace poter consigliare anche di non investire. Certo. Perché quelle che consiglio ai clienti sono le cose che faccio per me stessa. Per te stessa. Ok. Ma tanto più ci sono dei periodi come questi, visto quello che sono i mercati, in cui diciamo la componente di liquidità uno deve considerarla con attenzione rispetto magari a impegnarla in cose che rischiano parecchio. Volevamo chiederti iniziare una riflessione. Senza entrare nel merito di cosa comprare o meno, perché qui il ragionamento come è noto, ma lo ripetiamo, dipende per ciascuno di voi da vostro reddito, sulla patrimoniale, che intendete, che ritorno intendete realizzare, qual è il vostro orizzonte per mantenere cose ferme o recuperare flussi di capitale dai vostri investimenti, bla bla bla, da tantissime cose che sono diverse per ciascuno di voi individualmente, quindi per questo c'è bisogno di un consulente proprio. Però volevamo cominciare una riflessione su intanto che cosa di sicuro non comprare con questi chiari di luna, no? Ecco, questa domanda trova una risposta diversa sempre, perché invece di perdere tanto tempo a preoccuparmi delle previsioni, tutto, c'è sempre qualcosa da comprare e c'è sempre qualcosa da evitare. Okay? C'è sempre. Io in questo periodo, in questo momento storico, sto evitando strumenti poco liquidi. Oh. Io nei portafogli inserisco titoli, ETF, fondi, però non per forza solo uno di questi. E quello che mi preoccupa soprattutto è che vedo troppi prodotti, troppi ETF in genere, sto generalizzando, però questo ha fatto sì che spesso, se io voglio entrare, per esempio a febbraio ho le prove, ho consigliato di entrare nel settore agribusiness si chiama, e anche nel settore delle società petrolifere, non ho potuto usare molti ETF per farlo, perché gli ETF settoriali, ad esempio, spesso non sono scambiati. Ci sono anche molti ETF con volumi molto alti, cioè che sono ben scambiati, io tendo a usare solo quelli. Dunque, quando si sceglie un ETF, consiglio magari di dare meno importanza ai costi, che quello ormai è un problema risolto, costano tutti poco, hanno tutti i costi bassi. Però di guardare i volumi, perché altrimenti rischio di comprare un prodotto che poi quando è il momento di vendere, non riesce a realizzare. Comunque gli ETF diciamo che hanno avuto una proliferazione enorme, sono diventati una specie di vero proprio drive di settore, e la gente è poco attenta però alla liquidità e agli scambi. La liquidità è il problema principale, anche per le obbligazioni, soprattutto per le obbligazioni. Ormai le obbligazioni stanno diventando una trappola. Cioè, è difficile comprarli, è altrettanto difficile rivenderli, e allora io non consiglio obbligazioni, sia questo vale sia se li compro direttamente sia se sono dentro un contenitore. Un fondo e un ETF sono contenitori, dunque se io vedo che le obbligazioni non hanno più scambi, sono difficili da comprare, non vale per tutte le obbligazioni, vale per molte obbligazioni, questo sto alla larga. Io evito strumenti trappola, cioè strumenti da cui non posso uscire. Perché è il vero problema adesso, secondo me. Vero problema, dice, quando dici vero problema, per capire chi è in ascolto, stai parlando di un'ottica di brevissimo 23 paure di rollover che sono scatenati da voli, dalle decisioni dei britannici, oppure è una questione di più lungo periodo? No, intendo da qui di medio periodo, cioè nella prossima crisi, questo si è già visto in agosto l'anno scorso. Quando è tutto ok, no, vabbè, non c'entra niente questo con il Brexit. Questo è un problema di mercato che vedo da molti mesi e lo vedremo nei prossimi mesi o anni. Quando ci sarà la prossima crisi di mercato, che arriva sempre, c'è sempre qualche pezzo che va in crisi, io penso, perché lo vedo già adesso, cioè, quando il mercato è tutto tranquillo si riesce a comprare e vendere qualcosa. Quando c'è tensione sul mercato, cioè è proprio impossibile vendere certe obbligazioni. E parlavo anche di obbligazioni sicure, non quelli high yield, sto parlando di obbligazioni, quelli con rating AAA. Certo. Okay? Certo, io ho dei clienti che comprano anche le obbligazioni, che comprano istituzionali, usiamo, magari vendiamo via telefono, operando su mercati esteri, lì non abbiamo tanti problemi. Per i clienti a media dimensione, quelli con portafogli un po' più piccoli, che comprano obbligazioni quotati su mercati italiani, cioè, è diventato un incubo, cioè, è diventato impossibile vendere obbligazioni. Dunque io molte obbligazioni che vedo dove non c'è liquidità le ho tolte, perché non voglio la trappola, tanto rendono zero, voglio dire, cioè, non sto consigliando di vendere, ecco, sto consigliando di controllare la liquidità delle obbligazioni che si hanno in portafoglio. Sicuramente, mi scusi se la interrompo, ma adesso che abbiamo, diciamo, delimitato quello che è a rischio, che cosa possiamo dire dal versante positivo, cioè cosa le piace e cosa su cosa investirebbe? Io penso che ci sta, attenzione, poi dopo io ho sempre il portafoglio, no? Con diverse strategie. Sì. Nel portafoglio anche delle fette dedicate a cose che i clienti non vogliono comprare. Esempio, consigliere sterline adesso, tutti rispondono no, c'è Brexit. Invece, secondo me, se ci sarà Brexit fa male all'euro. Non dico lo stesso giorno che esce il risultato del referendum, però non sto dicendo di comprare la sterlina, perché ogni pezzo del portafoglio va calibrato rispetto al resto del portafoglio. Io ho tanti titoli azionari sulla borsa di Londra e non posso comprare sterline perché sono già esposta alla sterlina, per capirci. Certo. Ok. Però io penso, nel momento in cui adesso nessuno si preoccupa più di obbligazioni, perché adesso la BCE compra, io invece comincio a temere sorprese all'insù per l'inflazione. Poi verifichiamo. A me non piace fare previsioni, nel senso che io oggi vedo certi scenari, ho sempre la possibilità di cambiare idea. Il mio lavoro non è quello di fare previsioni, è quello di aiutare i clienti a agire quando le cose vanno in modo diverso di quello che pensavamo. Lì è il problema. Lei dice, a differenza di molti promotori che lo dicono, ma poi non lo fanno, lei dice che il suo vero fine è quello di mettere il cliente nella condizione di poter capire sempre di più le cose da solo, in maniera che nel tempo capisca meglio e rimane fidelizzato a lei. Questa è la differenza tra consigliere finanziario e dipendente, no? Ma io conosco tanti promotori in grandissima, questo non lo so. Io ho riscontrato che più il cliente diventa esperto e più conosce lui il mercato, più trova il suo vero profilo di rischio e più ha risultati buoni. Ok, allora fermiamoci a questa prima pillolina su che cosa non comprare, attenti alla liquidità di ETF obbligazioni. Grazie Ida Pagnotella, e poi ci sentiamo nelle prossime puntate. Intanto negli sms che sono arrivati c'è qualche cosa di buono. Io intanto stavo scorrendo su le Milano Finanze del sabato la lista delle cedole da 5% e più con dividend yield fino a sopra l'8%. Su questo tema, sicuramente questo tema dovremmo approfondirlo e svilupparlo, diciamo, anche perché non sono completamente d'accordo con questa tesi, ma ci porterebbe via troppo tempo. Tornando sul discorso del mercato del lavoro, ci scrive un ascoltatore, Pietro, che si definisce, afferma di essere un cacciatore di teste, e dice: posso assicurare che il mercato del lavoro relativo alle risorse con professionalità medio-alta è fermo, perché da un lato le aziende non ne hanno bisogno, e questa mi sembra un'affermazione piuttosto tranchant, diciamo, e dall'altro perché molti signori lavoratori non se la sentono di lasciare il contratto ex articolo 18 per abbracciare le tutele crescenti. A tutti i livelli è sempre e solo questione di palle, il tanto decantato talento italiano non le contempla. Qui c'è moltissima carne al fuoco, magari Carlo Alberto, se tu hai una valutazione. No, c'è da dire che questo era uno degli oggetti del dibattito sul Jobs Act, introdurre una disparità di trattamento creava un disincentivo alla mobilità, cioè alla fine la gente rimaneva aggrappata alla propria azienda. Anche il nostro ascoltatore questo ci dice. Ce lo sta dicendo, sì. Magari con toni coloriti e non magari supportati da dati, però è oggettivo che quel rischio c'è, un incentivo a rimanere dove stai, a stare attaccato, quindi un incentivo alla immobilità, alla recrudescenza di alcuni modelli organizzativi purtroppo c'è. I migliori ovviamente prendono il coraggio a quattro mani e se ne vanno. Sul tema della domanda delle professionalità, purtroppo devo dire che anche qua i dati che vedo a livello europeo, noi abbiamo il massimo differenziale tra professionalità medio-basse e professionalità medio-alte, cioè i giovani in Italia, per esempio, hanno lo stesso livello di impiego nelle professionalità basse, più o meno come in Europa, mentre hanno diversissime professionalità alte. Quindi in qualche maniera c'è questa divergenza. E qui c'è molto segmentato, per cui è difficile generalizzare sotto questo aspetto. Poi, dopo, diciamo, io ricordo questa polemica, ad esempio, Ichino diceva non è un problema il fatto che si applichi solo ai nuovi assunti, perché con il naturale fisiologico turnover del mercato del lavoro da qui a qualche anno saranno tutti nel nuovo regime. Sì, a me sembrava un po' farla un po' semplice qua. Ecco, no, per cui... chi non si è fatto piacere, ciò che, adesso io lo dico con stima verso chi, non cambierò mai la sua stima, però lui è uno che poi si adatta politicamente, cioè uno che voleva la flessibilità alla danese, gli hanno bocciata l'idea, il job set non è la sua idea e lui dice beh va bene comunque, insomma, e lo capisco perché poi l'adattabilità se fai politica è necessaria, però Pietro è di quelli che diceva va omologato il regime privato e pubblico. Abbiamo perso, caro Pietro Chino, inutile dire di no, abbiamo perso, e i giudici dicono che poi sono i politici che sanno e che non lo scrivono, quindi è la politica, non prendetevela con i magistrati. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci tornati in diretta alle 11.37, primi 52 secondi in questo sabato 11 di giugno, e siamo arrivati all'ingresso vero, dopo tanti annunci di Berlusconi, caro Silvio riprenditi, ma detto questo, dopo tanti annunci che vendeva ai cinesi, passato un mucchio di tempo, invece l'Inter, l'Inter Moratti via, Torir venduto a Suning ai cinesi, ma qui il problema è che i cinesi, Milan, Inter, hanno una strategia, questo è il punto. Allora, sigletta del piano quinquennale. Have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping. Il presidente Xi Jinping va benissimo, ma con noi è altro che il presidente, la nostra presidentessa Rita Fatecuso. Come stai, Rita? Bene, bene, bene, sto molto bene. Devo dire che, Oscar, bisognerebbe fare una musichetta ad hoc per questo piano pluriquinquennale del calcio, che ha una sua strada, una sua tempistica. 2016-2050, Xi Jinping ha tracciato dei numeri che altro i conti della Belva. Per il calcio c'è di tutto di più. Cioè? Quindi 20.000 scuole di calcio, 30 milioni di praticanti, 50 milioni di praticanti non allievi delle scuole, sono già 300 milioni i tifosi, e soprattutto adesso dietro l'angolo c'è una data molto importante, il 18 di giugno, è la data della grandi sconti nazionali, per cui il calcio serve a vendere, e tutti quanti gli operatori e-commerce sono tutti scatenati, perché il 18 ci sarà questa grande vendita. Il nuovo proprietario dell'Inter, che è appunto questa azienda che si chiama Suning, che ha il retail più grande di elettrodomestici di tutta la Cina, 1600 negozi, è già scatenato per incassare una bella fetta anche con questa, questo discorso appunto del calcio. Con l'Inter. Rita, Rita, hanno capito i cinesi che il calcio fa PIL, fa tanto PIL, e giustamente, PIL, e tra l'altro fa anche un altro vantaggio, è già nel World Trade Organization, è già nel WTO, perché è un business interoperabile, scambiabile, con barriere all'investimento, è uno dei business più straordinariamente liquidi al mondo. Carlo Alberto, diciamoci la verità, la colpa di quelli della Bocconi come Carlo Alberto è che abbiamo dovuto aspettare i cinesi, visto che il calcio in Italia, di farci insegnare che è un business dai cinesi, ma voi non avete saputo convincere la proprietà e i manager delle squadre italiane. Questo è il punto vero. Comunque ricordo a tutti che le due squadre milanesi hanno record mondiale dell'incidenza degli stipendi sui ricavi, cioè sono le due squadre che pagano di più i giocatori al mondo, ma con tutti gli sport, davvero, la NFL, davvero, cioè, al mondo i dati recentemente e l'Italia diciamo la Lega di Serie A è quella che ha l'incidenza sugli stipendi più alta al mondo. Fate conto che abbiamo un'incidenza circa del 80% quando e la Bundesliga c'ha il 50, la Premier League c'ha il 58, cioè spendiamo in stipendi quasi il doppio degli altri. È una delle ragioni per cui ecco mi aspetto i cinesi. Esatto, ecco che ci vogliono. Abbassano il famoso costo del lavoro, ma no, abbassano a casa nostra, non a casa loro. A casa nostra, certo. E poi alzano il fatturato, perché questi qua che hanno comprato l'Inter sono dei maghi della distribuzione. Ci troveremo robe nere, azzurre. Il bello è che i giornali italiani ne parlavano con una sufficienza come se si trattasse di venditori di spugnetti. Ma comunque, poi hanno un legame con Alibaba, per cui è tutto dire. Dici un po', Rita, dici un po', Rita. Loro hanno veramente anche la loro stessa piattaforma online, quindi in qualche modo possono fare alleanze con Alibaba, però sono in un certo senso autosufficienti, perché se io voglio un elettrodomestico Suning posso benissimo utilizzare la piattaforma Suning.com. Tipo un marito. Io so che tu stai compilando perché vuoi un marito digitale cinese dalla Suning, è così? No, non è vero. Io non posso incorrere nel reato di bigamia, che sarebbe reato anche qua, maggior ragione. Quindi non sto assolutamente cercando solo di capire questo paese, che secondo me è per certi versi molto molto molto difficile da... Ecco, stanno arrivando verso una totale omologazione anche dal punto di vista, diciamo, di questo tipo di discorsi, di punto del calcio. Loro guardano sempre fuori dalla finestra e si prendono tutto quello che gli piace, può fare a caso loro. Posso dire, hanno Rita, cominciato, però... voi lo sapete, con Lippi, no? Con l'Evergrande, Guangzhou. Esatto, ma possiamo dire che il calcio è una forma di diciamo, ambizione imperiale della Cina, pacifica, cioè convoglia nell'energia sportiva quel legittimo, secondo me, progetto di importanza, acquisizione, riconoscimento mondiale che la Cina sta perseguendo. Meglio sul calcio che altrove, se posso dire. No? Ma perché noi abbiamo dovuto aspettare i cinesi, Carlo Alberto, per scoprire che il calcio, invece che avere dei proprietari senza soldi in Italia, nella media, che investe poco e utilizza il calcio, il football per potere locale o nel proprio settore, quando invece, come si capisce, è un brand che ha un effetto e una leva moltiplicatore mondiale, persino scassato com'è nella crisi di talenti, cioè di soldi, il calcio italiano. Perché non lo dire abbiamo... a me, che sono anni che cerco di fare esattamente questo, cioè convincere che il calcio deve essere aperto a capitali, non deve essere il risultato di qualche tycoon che deve difendere la propria posizione politica, ma deve essere anzi è uno dei business più unificanti e liquidi e internazionali al mondo. Nella mia testa è tra l'altro un business molto inclusivo, perché offre ai talenti di tutto il mondo opportunità di partecipare, e io penso che invece la Cina questo lo stia facendo molto seriamente, e spero che non lo faccia come l'ha fatto la Russia, come ha fatto l'Europa dell'Est prima della caduta del comunismo, cioè con gli steroidi finti, esattamente, cioè per celebrare il regime, lo faccia in maniera corretta. Che dici, Rita? C'è il rischio che diventi una celebrazione di regime? No, perché loro sanno benissimo che a loro volta, per diventare campioni del mondo, che sono campioni in Asia, dovranno piangere lacrime, cioè proprio come squadra nazionale, quindi su quello sanno benissimo che la strada è non lunga ma infinita. Però in questa campagna di acquisizione, secondo me, rivela l'aspetto molto pragmatico della società cinese. Hanno capito che questo è un qualcosa che, vabbè, a parte che tiene distratti 300 e passa milioni di cinesi, che non è manco sbagliato, perché così pensano a quello, non pensano ad altre cose un po' più così struculianti, allora. Ma c'è questa leva importante importantissimo canale di, come dire, di consumo. Il consumo, quindi le vendite, piuttosto certo. che è una qualcosa che aiuta a vendere. Quando l'hanno capito questa cosa qua, si è mosso persino sì. il più grande distributore di... questo è importante, non soltanto il real estate, come nel caso di Wanda Dalian, piuttosto che Evergrande, Guangzhou, che fanno soltanto palazzinari, per dire. No, si sono mossi proprio quelli che vanno direttamente nelle case dei cinesi e di cui godono la fiducia. Però se perché posso, i loro prodotti anche... sono... C'è anche una componente infrastrutturale, sai come sai, la Cina ha sovrainvestito in infrastrutture civili, deve continuare a investire ma in capitalismo più leggero, gli impianti sportivi, la tecnologia dello sport, lo dimostra il caso inglese e il caso tedesco, il caso di successo, dove si è puntato a un modello di project financing innovativo, una crescita dell'affluenza, politiche di prezzi intelligenti, a CRM, cioè a gestione del rapporto con i clienti, molto forte, molto chiaro, ha portato a stabilizzare i ricavi, a creare occasioni di acquisto di consumo, della solidità e finanziaria, esattamente, del a introdurre anche paese. Tecnologie organizzative di straordinario livello. Io mi auguro che i cinesi vadano in quella direzione. La mia battaglia, come sai Oscar, la sto facendo esatto, in questo paese anche per farla in Italia. Comunque noi volevamo solo dire ai nostri ascoltatori, e grazie Rita per averci concesso con l'osservazione di là, che invece di trattarli con la sufficienza che io ho visto ai limiti della mancanza proprio elementare di civiltà, guardate, questi signori che stanno in arrivo non sono i prestanomi di cui si parlava da 2 anni, insomma. No, questa è gente quadrata, corazzata, che ha le idee chiare, che i soldi sa come farli fruttare. Cari tifosi, io ci penserei prima di dire ah che sfortuna. Secondo me invece è l'inizio di una nuova strada. Grazie a Rita, torniamo tra un minuto. Anch'io lo penso, ecco. ciao a tutti. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati per l'ultima parte, la più importante, la più spumeggiante dei conti della Belva di questo sabato, come di ogni sabato, oltre ai compari che sono qui, cioè Oscar, Mario e Carlo Alberto. Si è collegato anche Renato, ciao Renato, come stai? Buongiorno, voi come state? Bene? Vi abbastanza sento bene, abbastanza bene, ma sì, c'è la nuova sanatoria nei comuni che ci ha portato finalmente a festeggiare, quindi che vuoi, visto che noi ma sai, non viviamo in comuni sanati, quindi pagheremo di più, questo vabbè. Ci sono i ballottaggi, quindi bisogna fare qualcosa per tirare su un po' i sindaci o governo, diciamola così. Senti, questa settimana cosa ci proponi? Minuti, cosa ti ha colpito? Cosa ci proponi come esempio del non si può fare? Allora, ieri il nostro Presidente del Consiglio è andato a un convegno al quale sono molto legato, perché io sono un ex giovane imprenditore e ho organizzato per un sacco di anni Santa Margherita. No, precisiamo però, tu sei ex giovane, non ex imprenditore. Io sono un ex, ho detto ex giovane imprenditore, ex, molto ex, ormai... Si perde nella facevo i conti l'altro giorno. No, lo sapevo che adesso come vai in Harley Davidson, no. Io non ho la forza per salirci. No. Non diciamo fesseri, no, però vai al merito. 5 anni che sono andato, che ho organizzato io a Santa Margherita. Vabbè, comunque detto questo. Allora, ieri Renzi ha detto ai giovani imprenditori l'impresa non senta lo Stato come un ostacolo. No? Allora, intanto vorrei dirgli che bisognerebbe che lo spiegasse ai suoi burocrati sul territorio in modo che effettivamente poi questa cosa, se a lui interessa, venga percepita dagli imprenditori, perché che il Presidente del Consiglio lo dica è un conto, quello che fanno poi sul territorio è tutto un altro. E proprio andando a vedere poi cosa fa lo Stato sul territorio, allora sul lago di Iseo stanno facendo un'operazione bellissima, perlomeno per me che sono appassionato d'arte. Questa passatoia di Cristo. E c'è Cristo che sta facendo una delle sue installazioni, che sono sempre site specific, molto importanti. Sta creando un volano pazzesco a livello di turismo, a livello di interesse per il lago di Iseo, di visibilità e tutte queste cose qua. Naturalmente per fare questi lavori, come ogni artista, si portano i loro team e cercano di lavorare nel modo migliore per fare l'opera. Per ottenere l'opera, no? Certo. Naturalmente, nel momento in cui c'è qualcuno che lavora, non possono mancare l'ASL e i controllori del lavoro, no? E quindi cosa è successo? Che sono arrivati lì e hanno scoperto che i sommozzatori francesi che stavano fissando le pedane non erano dipendenti assunti da Cristo e non avevano la partita IVA. Oh, è gravissimo. No? E quindi è lavoro nero. Lavoro nero, Cristo. Allora, qui un mio amico Maurizio mi ha fatto una bellissima battuta. Ecco il sommerso che vogliono far emergere, quello dei sommozzatori. No, ma tu ridi, ma guarda che ci hai dato un esempio che sicuramente lo Stato, la controparte pubblica che ha mandato l'ispezione, ti direbbe che Renato Cifarelli sei complice per violazione di reato. Cioè, questa è l'obiezione. L'obiezione è che lo Stato fa benissimo il suo mestiere. Quei sommozzatori sono un lavoro nero da far emergere dalle profondità del lago di Iseo. Ovviamente il nostro buonsenso, Renato, non viene, rimbalza, perché viene concepito come una specie di provocazione. Noi, le norme sono qua e noi siamo per farle rispettare. Che gliene frega loro di Cristo, dei tempi da rispettare, della bella opera? Che vuoi che gliene freghi? No, poi devo dire che effettivamente probabilmente la lobby dei sommozzatori italiani ha detto che c'erano dei sommozzatori francesi che lavoravano in nero e invece di assumere gli italiani hanno preso i francesi. Perché poi in Italia siamo specialisti in queste cose qua, no? Cioè, noi sappiamo sempre trovare la regola, che per carità, io non sto dicendo che bisogna andare contro le regole, è giustissimo che chi lavora sia inquadrato secondo le regole del paese, perché sennò si aprono delle cose pazzesche, no? Però io quello che dico è, ci sono migliaia di camionisti rumeni sulle strade italiane, contratti in varie aziende, e andiamo a prendere gente che lavora per 2 settimane. Questo è il nostro problema. Ma dai, probabilmente, ma è pazzesco, ridico. Guarda, a maggior ragione quello dà visibilità. Ma quello dà visibilità, quello poi ti attira un po' di consensi della lobby che ti vuoi tutelare in Italia e così via. Però a maggior ragione con i dati fiscali che sono usciti questa settimana. E io, quando li ho riproposti ieri in trasmissione, lo sapevo che sarebbe avuto quello che ho avuto, la mail intasata da reazioni che dice: non ci crediamo, non è così, ma chi è questo Brambilla, quello di Trenare Previdenziale, che ha semplicemente rifatto la ricollocazione per classe di reddito dei dati dell'anagrafe tributaria 2015, quindi per il reddito 2014. Però dire agli italiani che praticamente il metà della popolazione italiana ricade in nuclei familiari con capi famiglia, metà che non pagano più di 300 euro di IRPEF l'anno, questa roba la gente non ci crede. Perché siccome la premessa è, guardate che le tasse bisogna levarle a chi le paga, cioè non a voi che state in basso, ma a chi sta un po' pochino più su, che sono i massacrati veri, la gente insorgere, cioè tu sei fuori gli evasori. No, no, cari miei, no, perché a voi vi raccontano che in Italia c'è un enorme coefficiente di Gini, mentre andiamo a vedere che metà di voi non paga più di 300 euro di IRPEF e che un quarto non paga un euro di IRPEF, perché questo è il punto. Sto parlando di popolazione. Ma loro il coefficiente di Gini sul patrimonio, non sul reddito, per esatto. Cui alla fine c'è sempre un punto dove andare a recuperare, come diceva ieri la Susanna Camusso. Cari miei, noi in un paese in cui il 2%, io sono in quel 2% di contribuenti che paga il 20% dell'IRPEF, noi non ce la faremo a finanziare da solo lo squilibrio di finanziamento della sanità e della previdenza nei prossimi anni. Non che io mi voglia sottrarre alle tasse che pago, ma non ce la faremo. Non si può chiedere al 2% della popolazione italiana di finanziare tutto il resto. Allora, detto questo, quello che hai detto tu rientra in questo più novero di problemi più grande, Renato, cioè tassare sul piccolo e rompere i coglioni è una roba che sta moltiplicando l'economia territoriale quando sono i grandi numeri quelli a cui non si guarda. Un bel esempio, grazie Renato Cifarelli e grazie a voi splendidi compari come sempre. Grazie a voi. Grazie. Alla prossima. Andate a vedere l'installazione di Cristo. Esatto, molto bella quella di Cristo e appuntamento lunedì mattina con me, per una settimana da solo, senza il mio Milan, attenti a noi due alle 8:15 di lunedì.